タラタラタラララ、 eccoci, benvenuti alla terza puntata in pandemia di In Punta di Pedale qui su Radio Wombat. Vi ricordiamo i nostri recapiti: posta wombatinsiberia.net se ci volete scrivere, e poi il sito wombatnoblogs.org per seguire tutte le trasmissioni di Wombat Radio. E niente, bentrovati. Si diceva terza puntata in pandemia, terza puntata pandemica. E la pandemia ha tirato fuori tante cose brutte e belle. Una di queste è la Virtual Critical Mass, che sarà il nostro primo argomento. Poi parleremo un po' delle contraddizioni tirate fuori dalla pandemia, di alcune stranezze, e per distrarci infine un'intervista con un ciclo viaggiatore di eccezione. Quindi parleremo di viaggi e per distrarci un po'. Ma adesso mandiamo subito un pezzaccio. Davide Di Rosolini, Quarantena. Telegiornale, morti, contagi, balcone, un'altra sigaretta per poi cucinare, un altro caffè, un film al PC, puoi portare il cane a fare pipì, tornare, fumare di più, poi devastarsi di serie TV. Sigaretta con una birretta, io sono un divano, videochiamate, flash mob, sta tutto nel mio telefono in mano. Fumare, fumare, fumare fa male anche il telegiornale. Birretta, caffè, sigaretta, cenetta, lametta, barbetta. Farina, la mascherina, niente a mucchina, tonno, formaggio, birra, birra, birra, vino, birra, birra, birra, birra, birra, più birra, birra, ancora più birra. Thank you. Eccoci bentrovati in punta di pedale su Radio Wombat e come avevamo anticipato è qui con noi Michelangelo che buonasera Michelangelo che ha avuto che possiamo dire ha avuto l'idea della Virtual Cemona, giusto? Sì, giusto. Ho avuto l'idea della Virtual Cemona. Come ti è venuta? Hai presente il film quando James Belushi dice non c'è bisogno di qualcuno che faccia un gesto del tutto irrazionale e senza una logica? Ecco, ma è in quel modo lì, perché ho pensato che servisse rompere un attimo lo schema della reclusione, ma non necessariamente andarlo a fare per strada, bastava liberare l'idea per contrastare il fatto che dobbiamo stare a casa. E quindi ho detto, serve un gesto del tutto irrazionale. Un gesto del tutto irrazionale è una virtual cemona, ci può stare. Una virtual critical mass, dai, non cemona. Una virtual critical mass, in realtà è stata una cemona, se ci pensi. È stata una cemona. Perché le lezioni sono state in tutto il mondo. Se fosse stata una critical mass, ce la facevamo a Roma, oppure ce la facevamo a Torino. Però serviva ancora più irrazionale, perché siccome la chiusura è a livello globale, tutti quanti c'avevamo bisogno, tutto il mondo c'aveva bisogno di un gesto irrazionale. Allora, noi abbiamo come Radio Wombat in punta di pedale, abbiamo fatto da colonna sonora, da playlist, no? E poi cosa... Non c'è che dirvi grazie, insomma. Oh, figurati. Avete messo in sintonia le anime, no? La musica serve a quello. Abbiamo avuto parecchi contatti che hanno, sì, che hanno dato questo senso di unità, no? Oddio, contro quel senso di unità di cantare dai balconi, che a me sinceramente non è che... Però è un'altra cosa. Ognuno trova il suo motivo, anche non la vedo brutta che uno che canti dal balcone con quello se canta bene. Se salutino, per me questa tutta, i miei figli l'hanno fatto, i primi giorni soprattutto. Quindi non la vedo una cosa brutta che le persone si ritrovino con una canzone o con un pezzo musicale stiano insieme, anche se solo da una parte all'altra della piazza. Senti, poi come è cresciuta l'idea? Ti è venuta a te, l'hai passata? È cresciuta. Io l'ho buttata lì su un social, sai, su Facebook, ci stanno le pagine che si fanno la critica mass, l'ho buttata lì. Poi in realtà ho detto, perché non buttarla in pasto a... dove nascono le critiche al masso, dove le critiche al masso si muovono, appunto cemona.org, la rete dell'officina, eccetera. E lì, contrariamente a quello che pensavo, cioè, in quel momento ho vissuto una dicotomia, ho detto va a finire che mi dicono che sono impazzito, perché poi c'è sempre il discorso che la critica al masso va per strada, non va sul virtuale. Quindi lì per lì ho detto, secondo me la sto a fare una sciocchezza, però era appunto quella sciocchezza, tutti quanti l'hanno subito capita come il teatro dell'assurdo, cioè la facciamo più assurda di quello che deve essere, così che sarà un modo per stare insieme in modo vero. Certo. E le adesioni sono state tutte quante in tal senso, cioè tutte le risposte che ci sono state, che ho avuto sono state sì bello, perché appunto c'era la voglia di... hanno capito immediatamente che... perché poi la virtual critical mass che poi diventa cemona posa su un'app dove che è Critical Mass, che è una app di geolocalizzazione dove mano a mano appaiono le biciclettine e che normalmente viene usata per appunto per confluire tutti in una piazza e muoversi tutti insieme, e chi è in ritardo raggiunge la critical mass. Questo è l'utilizzo di critical maps in condizioni di normalità. L'idea è stata proprio, usiamo critical maps per vederci tutti, cioè ogni biciclettina che si accendeva nella mia testa era un amico che si connetteva, e in effetti questo è stato. Niente, appunto, il teatro dell'assurdo è stato che, non potendo stare per strada, siamo stati tutti su una piazza virtuale contemporaneamente, allo stesso momento, contemporaneamente con la stessa musica. Bellissimo. Come ti sei sentito? Tutti quanti l'hanno vissuta come uno stare insieme da lontano, non potendo materialmente essere vicini come avremmo fatto su una critical mass normale. Grande, sì. Come te li sei vissuta quella mezz'ora? Come te la sei vissuta? Con grandissima furia mi sono potuto la vostra musica me la sono proprio goduta, e non solo quello, appunto, che se la sono potuta anche gli altri, perché poi il riscontro che ci ho avuto è stato proprio questo qua, che ognuno era anche commentato sul brano, perché poi su WhatsApp, su Facebook, su Twitter, capivi che le persone stavano seguendo la stessa cosa, e mano a mano anche i pallini che si accendevano su Critical Maps, vedevo che cresceva a livello romano, a livello italiano, perché c'è stato a livello europeo, c'è stata proprio l'esplosione, a livello mondiale, perché c'erano le bicigliettine in Nord America, nel Sud America, in Australia, tutti allo stesso momento. E paradossalmente molte di quelle biciclettine per me erano facce, cioè erano chiaramente il simbolino della bicicletta sulla schermata di Maps, però per me erano facce vere, perché so più o meno, almeno quelle di Roma, so chi erano, quelli di Torino io so chi erano, ma a Torino se ne sono accese tre, ma so chi erano quelle facce, so chi era la biciclettina che stava in Australia, perché quella è Melanie, che adesso vive in Australia, so chi erano i bicicletti a San Diego, so chi erano a Berlino, alcuni, non tutti, però gli davo delle facce che mano a mano, cioè, venivano fuori, è stata tutta e poi mi ritornavano i messaggi sui social, e questa è stata un'euforia che viaggiava, volava come se fossimo a, sembra assurdo dirlo, a una critica al mass, però era così, ed è diventata una gemmona in realtà, proprio per quello lì, perché a farla su Roma sarebbe stato paradossalmente facile, dici, lo sai, la facciamo su Roma, la facciamo Roma-Firenze-Milano-Napoli, che sono le persone che normalmente partecipano alla Gemmona, degli italiani, e che alla fine sono quelli che tu senti telefonicamente, io non c'ho bisogno, sono persone che se voglio li chiamo per telefono, però non bastava, non era quello lì, l'idea non era quella lì. L'idea che ci avevo io in testa e che tutti hanno recepito era proprio ce la montiamo sotto al sedere stando fermi, e così è andata. E la vostra musica, devo dire, è stata un grandissimo sottofondo, a prescindere dalla scelta musicale, che insomma poi è stata più o meno apprezzata, quello dipende dai gusti, nessuno lo può, nessuno lo poteva sapere a priori o meno. Ma purtroppo non potevamo essere in diretta, altrimenti sarebbe venuta anche più figa. Sì, magari ci si attrezza per la prossima. Se tu ci pensi, anche una critica al massimo, no? Non è che tutti apprezzano la musica che mette quello che c'è al sound system, ma magari se porti la cassa tua o ascolti quella di qualcuno che ce l'ha più in sottofondo, ma che ti piace di più. Non c'è un leader, ognuno va un po' per capoccia sua. Ah, certo. Questa cosa, se uno non voleva sentire Radio Wombat, spegneva Radio Wombat se sentiva la musica a casa sua. Certo, certo. O se faceva un WhatsApp con un amico suo, la musica che preferiva. Magari qualcuno l'ha fatto, che ne so. Ma qualcuno ha pensato che metti una musica da merda. Ma lo sai che comunque venendo i tedeschi ormai l'hanno fatta propria l'idea, te l'hanno rubata. Cioè ora loro... Sì, ora loro proprio stanno per fare, io li seguo sui social, le critical mass tedesche, faranno anche loro, mi sa, la prossima la faranno virtual, cioè l'hanno già fatta virtual, ha girato tantissimo questa qui di questo mese di marzo, ma ci hanno preso gusto e penso che ne faranno altre, ecco. Sì, però io spero che appunto appena non serva più, non serva più. Speriamo. È stata figa, però. Una volta, due. Esatto. Una volta, due volte, poi. Speriamo di non serva più. C'è un motivo per cui siamo per strada, che non è solo reclamare lo spazio stradale in contrasto al mondo del petrolio, al mondo della macchina. È proprio una voglia di estensione. Quando vado a girare il massimo non me ne frega neanche niente delle macchine che sono intorno, da me ne frega interesso di più abbracciarmi con le persone con le quali normalmente ne scambio quel gesto di saluto lontano con le macchine in mezzo, quella sera invece me li abbraccio, quindi spero che nei prossimi Critical Mass quanto prima sia possibile farle in strada e potersi abbracciare di nuovo senza paranoie. Senza paranoie, sì, no, poi io sono convinto che alla prima magari ci avremo qualche paranoia in più, alla seconda niente, tanto l'uomo convive con quello che sono le epidemie, con poi non credo che arriverà la batteria, almeno non lo so, io non sono un virologo, non sono un epidemiologo, però non penso che arrivi qualcuno con la bacchetta magica e risolva il problema o un in terra faccia il miracolo. Può essere pure qualcuno potrà avere la fede per credere, se non lo, come si dice, non lo giudico, non, nel mio modo di pensare la cosa non la vedo. Se dovesse succedere ben venga, cioè se sì. Domani ben venga il miracolo, cioè, schifo non ci fa. Certo. Va bene Michelangelo, io ti ringrazio e continuiamo con la puntata e mettiamo subito un bel pezzaccio sempre in ricordo. Ringrazio te, ringrazio tutti voi, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla Critical Mass, ringrazio tutti a virtuale, ringrazio tutti quelli che parteciperanno alle prossime Critical Mass in strada e spero di abbracciarvi tutti quanti quanto prima. Grande, grazie Michelangelo, a presto, ciao. Va bello, ciao. Oh, taglia l'untore. Torniamo in punta di pedale su Radio Wombat. Oltre alla Virtual Critical Mass, la pandemia ha portato, tra oltre ai morti, altre cose meno simpatiche, come il fenomeno della delazione, molto fomentato dai media mainstream, cioè l'additare chi esce per una corsa in solitario o una pedalata in solitario, additarlo come se fosse un untore, come se fosse lui la causa della pandemia, dell'epidemia, quindi scaricare le responsabilità su un capro espiatorio. In realtà sappiamo benissimo che l'elevata mortalità di questa malattia è dovuta a una sanità che è stata depredata e depotenziata in questi anni a favore del settore privato, e sappiamo che molte fabbriche non hanno chiuso quando dovevano, e quindi anche per quello è dovuto il picco di morti, purtroppo. Risvolto di questa delazione, dell'approccio delativo, è che alcune persone che usavano la bicicletta per lavoro, in particolare c'è l'esempio di questo medico del Bergamasco che, dovendo andare al lavoro, ha scelto la bici come mezzo sicuro per andare al lavoro, quindi non interagendo con nessuno, essendo da solo in bici, è stato costretto, a causa degli insulti e degli attacchi che riceveva per strada, immotivati, totalmente gratuiti ovviamente, è stato costretto a attaccarsi un cartello al collo in bici, mentre andava in bici, dicendo: io sto andando al lavoro, lasciatemi in pace. Emerge di nuovo la tematica tipica, soprattutto in Italia, della bicicletta pensata soltanto come mezzo ricreativo, come mezzo sportivo. Quindi se ti vedo in bici durante la pandemia, stai andando a cazzeggiare, allora ti aggredisco, è tutta colpa tua. In realtà la bicicletta, come diciamo sempre a questi microfoni, va pensata come un mezzo di pari dignità a tutti gli altri, un mezzo che ti può portare al lavoro, che può portare al lavoro un medico, quindi consentendogli di svolgere le funzioni fondamentali, se non addirittura salvavita in quel contesto. In altri lidi non italiani, come al solito, ma molto più autocentrici, soprattutto quindi negli Stati Uniti e in Bolivia, invece vengono chiuse alcune strade e vengono trasformate in strade a utilizzo esclusivo di bici. Cioè qualcuno illuminato ha pensato che piuttosto che inondare di nuovo le città di automobili, nella pandemia molti si vorranno muovere autonomamente, dedichiamo delle strade, questo è diciamo l'esempio positivo che ci viene dall'esterno, dedichiamo delle strade al solo traffico ciclistico, togliendolo al traffico automobilistico. Questa sarebbe davvero una genialata. Un altro esempio positivo invece che arriva dal Bresciano è di un ciclista professionista che ha deciso di fare il corriere in questi giorni, non potendosi allenare, non avendo alcun motivo per allenarsi, visto che tutte le gare sono sospese, tutte le gare sportive sono sospese, e visto che nel suo paese non ci sono farmacie, non ci sono, nel paesino diciamo dove sta, non ci sono farmacie, non ci sono negozi di beni primari, ha deciso di fare il corriere per gli anziani che non si possono spostare dal paesino, quindi con la sua bici e con le prestazioni da ciclista professionista fa il giro del paesino, prende le ricette e tutte le richieste degli anziani e poi va nella città più vicina a fare le compre per conto loro. Questo è un esempio positivo e addirittura una risposta a chi pensa che la bici sia solo un divertimento inutile in questo momento, in realtà invece è uno strumento fondamentale, e questo ciclista Davide Martinelli ce lo dimostra. Bene, peccato poi però che nel DCPM ormai famigerato, fra le attività commerciali che possano restare aperte, non sono previste le officine di biciclette, quindi ancora una volta la bicicletta viene pensata come un'attività sportiva superflua in questo momento e non come un mezzo fondamentale per risolvere i problemi che la pandemia sta portando. Quindi, essendo qualcosa di voluttuario, le officine per bici possono restare chiusi. Quindi, se il nostro Davide Martinelli, portando il cibo agli anziani, portando le medicine agli anziani, ha un problema meccanico alla sua bici, si attacca. Questo perché le officine per le bici devono restare chiuse, mentre le officine per le auto sono fondamentali e devono restare aperte. Questa è ancora una volta un indice della mentalità dominante in Italia per ora. Eccoci, bentrovati, bentrovato Sergio e il nostro ospite di questa sera, Sergio Borroni, cicloviaggiatore, ma forse cicloviaggiatore un po' riduttivo, che dici? Forse più viaggiatore? Ma forse, non lo so, le definizioni le trovo sempre qualcosa che sono poco indicate. Mi piace viaggiare, mi piace viaggiare in bicicletta, l'ho fatto in tanti modi, non solo in bici. Forse in realtà sono un medico che ha viaggiato tanto, tutto lì, e che continua a viaggiare. Qual è stato il tuo primo viaggio o avventura? Per te c'è differenza fra viaggio e avventura innanzitutto? Beh no, quello era viaggio-avventura, ma in realtà avventura zero, ma per me lo era, semplicemente era riferimento all'età, avevo 13 anni, e io avevo un padre che era una persona assolutamente, oggi lo chiameremmo... peculiare, per me era una persona straordinaria. Io mi ricordo che ero a mare vicino dalle parti della Jugoslavia, in una zona dove erano tutti tedeschi, io mi rompevo altamente le scatole perché infatti non parlo tedesco, e a un certo punto dissi: babbo, io però tutti gli amici li ho a casa a Milano, io farei volentieri a casa. E lui era uno di quei pendolari che si usava una volta, che andavano e venivano, venerdì sera venivano perché si lavorava e la domenica sera si ripartiva perché si tornava a Milano a lavorare. E mi ricordo che un venerdì è arrivato, mi ha portato la bici, me l'ha messa in mano e fa: vai, torna a casa. Sii leggero e viaggia prudente. E fai conto, io avevo 13 anni, quindi è chiaro che per me era un'avventura. Intendiamo che erano anche altri tempi, altre strade, altro traffico, altro tutto. Però per me questa è l'avventura con la maiuscola. penso che nulla dal punto di vista emotivo nel susseguirsi degli anni si sia potuto avvicinare a quel sogno di un ragazzino di 13 anni che attraversava il nord Italia. L'Everest per me al confronto era come farsi la montagnetta di San Siro. Io ho fatto una cosa straordinaria, però ripeto, a 13 anni, quindi ci sta. E poi vabbè, un bambino semplicemente si è dimenticato di dire a un certo punto fermati e io ho continuato. Continuo ancora. Bravo, bravissimo. Infatti ora recentemente sei stata a Sumatra e un po' quando ho visto che eri lì ho detto oddio guarda che non lo fanno rientrare, c'hai avuto paura che non ti facesse? Allora, no, perché noi siamo rientrati prima che fosse scoppiata la parte dell'emergenza in tutta la sua potenza. Secondo luogo perché a Sumatra l'evidenza del coronavirus era uguale a zero. Ti posso dare, se pubblicherò il video lo vedrai, nella prima pagina del giornale di Sumatra, tenetevi forte, c'era la notizia che il Napoli aveva vinto con l'Inter o l'Inter con Napoli, non lo ricordo, comunque in prima pagina, questa era l'unica notizia che abbiamo ricevuto, prima pagina del giornale di Sumatra. Quindi la percezione di noi là era nulla. L'impatto grosso è stato quando siamo rientrati. Chiaro. Lì è stato... lo sappiamo tutti, non che stiamo a... No, io guarda, non avrei mai immaginato, non avrei mai immaginato. C'è stata... e poi si parla d'altro, però io ero a cena da una mia amica e quando è arrivata la notizia della chiusura delle varie province, tra cui Modena, e la compagna di questa mia amica doveva venire a Firenze per firmare il compromesso per l'acquisto della casa. E quindi non poteva, cioè il giorno dopo questa non poteva più uscire, il giorno dopo aveva da firmare, poi non so come l'hanno sbrigata, però è stato un momento proprio di dell'imponderabile che si manifesta all'improvviso. Per me è forse leggermente diverso, perché io ho fatto il medico, ho sempre fatto il medico, una cosa di questo genere è una cosa che anche sui test si fa fatica andare a trovare, qualcosa che in realtà sta cambiando, secondo me cambierà completamente anche il mondo, io non so cosa risulterà fuori da questo mondo quando il setto da questo pasticcio sarà passato, non so cosa rimarrà dell'Europa, non so come, se faccio fatica a fare qualunque tipo di previsione, non soltanto io, vedo tanta gente, anche gli economisti, insomma, ho l'impressione che siamo di fronte a qualcosa di assolutamente epocale mai visto prima. Io di contagi ne ho visti, ho anche vissuti prima, ho fatto un medico volontario in Africa variate volte, quindi anche di cose abbastanza forti mi era capitato di imbattermi, ma questa è una cosa che non ha paragoni. E non me la sarei mai aspettata. Fino a dicembre, gennaio, quando sono partito, questa roba non era neanche ipotizzabile, era niente. Ma secondo te sui nostri prossimi viaggi futuri, no? Ad esempio io immaginavo quest'estate di fare Germania, Austria, Slovenia e rientro, no? In bici. È proprio, ma anche ammesso, sì, chi lo sa, però anche ammesso che si risolve per tempo, no? Che si risolva per tempo. Avrai sempre il dubbio del muoverti? Ma chi lo sa? Non so darti una risposta, avevo tutti i problemi anch'io, compreso una bella cosa che volevamo fare con due ragazzi. Avrei visto il video che abbiamo fatto, uno un ragazzo che ha il Parkinson e l'altro che ha l'Alzheimer, e l'altro anno li avevamo portati a fare un giro, ci eravamo divertiti moltissimo, abbiamo un'esperienza anche dal punto di vista umano straordinaria, al punto che il mio compagno di viaggio, diciamo il più tradizionale, Ralph, era si è esaltato di fronte a questa, cioè, abbiamo imparato più noi da loro che loro da noi, mettiamoli in altri. Siamo qua tutti anche con loro, ci piacerebbe continuare, era già tutto programmato e adesso non sappiamo niente. Sì. Io non so nemmeno quando uscirò di casa la prossima volta, sto facendo i rulli, ho già fatto 500 km di rulli, che è una cosa da dementi, cioè proprio dall'altra parte non so cosa fare. Guarda, io mi sono arrivati ieri perché ho fatto l'acquisto compulsivo, Io sono chiuso in casa praticamente da quando è iniziato e hanno inciso positivamente sull'umore. Cioè, ho iniziato a fare un minimo di attività fisica un po', ma le endorfine mi hanno aiutato, ecco. Ti hanno aiutato perché ti sono arrivati settimana scorsa e sono le prime volte che lo fai. Parlamene tra un mese. Certo, immagino, eh sì. Un'ora più lunga al giorno è veramente da stoici. Non è una cosa quasi Senti, umana, è tremendo. una Però. domanda che ti volevo fare, oltre appunto al papà, chi ti ha ispirato? Quali altri personaggi o libri ti hanno ispirato? Personaggi, libri, argomenti, interviste, sì, una persona in particolare con quale poi per mia fortuna siamo diventati amici, ci siamo frequentati per molto tempo quando abitava a Milano, che è Walter Bonatti. Però attenzione, Walter era un gigante, io sono un nano, cioè le cose mi ispirava, ma la cosa finisce lì. Sì. Era una persona come ne nasce uno ogni qualche secolo. E il fatto di poter ogni tanto andare da lui, fare quattro chiacchiere, mi ricordo che teneva le fotografie dei suoi viaggi, delle sue avventure, in una scatola di biscotti, sulla credenza. Quando l'apriva era come aprire il vaso dei sogni, no? Cioè, io all'epoca avevo 30 anni, quando l'apriva per me era entrare in un mondo completamente sconosciuto, meraviglioso, fantastico. E all'epoca, se qualcuno lo ricorda, a parte i libri che ha scritto, lui lavorava per Epoca Life e faceva degli inserti, dei servizi di viaggi che aveva fatto ed era la mia finestra sul mondo. E io mi ricordo che all'epoca, ben, secondo me, 20 anni prima di conoscerlo, a 15 anni prima di conoscerlo, immaginavo come fosse possibile combaciare il fatto che comunque volevo fare il medico col fare quel tipo di attività o qualcosa di simile. In realtà non mi sono mai neanche lontanamente avvicinato. Però ho ricavato qualche piccolo spazio, mi sono tolto qualche piccola soddisfazione, facendo delle cose anche un po' particolari, e l'ispirazione sicuramente era sua. Lui era una persona, quando parlava, una semplicità pazzesca, ma straordinaria, veramente straordinaria. Per caso in questi giorni Michelangelo Pacifico, che è un ragazzo di Milano, è un ultra cyclist, ha Sì. messo su Facebook, ha girato un documentario su Bonatti che c'è disponibile su YouTube. Mi si è aperto un mondo, non, cioè sapevo di Bonatti perché da appassionato di fotografia seguo. Ad esempio, fotografi come Francesco Cito, che dice, lo considera una delle sue fonti di ispirazione, anche se la sua fotografia è poi diversa, però quello che l'ha Sì, portato poi. mettere di guerra era una foto che era funzionale alla documentazione del Sì, viaggio che lui faceva. sì, sì, sì. Quindi non era, tra virgolette, possiamo definire una foto Di con la report. ricerca di Estetica. artistico, era funzionale al viaggio che lui faceva e alla documentazione. Io mi ricordo, ne abbiamo parlato tanto tempo, in che modo viaggiava, perché aveva scelto alcuni materiali. Mi ricordo che usavo una Nikon, un duplicatore di focale di cui non era contento, ma c'era un problema, e questo lo capisco benissimo, legato anche al peso, all'ingombro di quello che devi portare via. Ed è un problema che affronto anche io quotidianamente. Ad esempio, nell'ultimo viaggio mi sono portato via un cannone gigantesco per andare a fotografare gli orango, che però non riesco a portare via in tutti i viaggi perché ha una dimensione, un peso che sono veramente importanti. Quindi la selezione del materiale è qualcosa che a volte ti limita anche poi, perché devi operare delle scelte, ma devi sacrificare qualche cosa. Mi ricordo che aveva parlato parecchio con la covata di questa faccenda. È un argomento interessante, tra l'altro. Senti, ma prima dicevi volevo fare il medico, com'è che si concilia con fare l'avventura? La domanda è come hai adattato la tua vita all'avventura, al voler fare a riuscire a essere un viaggiatore? Allora, io mi sento intanto di ringraziare il mio primario, con il quale mi sono laureato nel 1982, il professor Giorgio Riani, che mi ricordo alla fine del mio corso di laurea, quando ho detto: senti Giorgio, io però adesso qui, perché io mi ha scherzato, io cosa cazzo faccio da grande, cioè, capisci che aspettavo anche un'offerta dal punto di vista lavorativo. Poi mi ha tirato fuori la sua busta paga, mi disse questo è quello che incasso, eccetera, eccetera, dice se vuoi un consiglio da parte mia, prendi e vattene, perché l'ospedale è la tua morte, con quello che è la tua testa qui ci muore. Io mi ricordo che presi un kayak, me ne andai nel Montana, in America, e su un fiume che si chiama Gallatin. Il Gallatin entra poi nel Missouri, il Missouri entra nel Mississippi e poi arriva a New Orleans. Io ho seguito tutto il corso fino a New Orleans, dicendo, boh, ora di New Orleans avrò le idee un po' più chiare. Quando tre mesi dopo sono arrivato a New Orleans, ho detto, faccio la libera professione. Perché ho fatto poi tutt'altro che la carriera ospedaliera, ho fatto una vita da libero professionista. Che è stata, per alcuni aspetti, anche la mia fortuna. Perché in questo caso tutto quello che riguardava la scelta delle ferie, di quanto, di dove, di come, era spettava a me, non dovevo chiedere niente a nessuno. E da una parte mi è spiaciuto perché comunque a me l'ospedale per molti aspetti piaceva, e dall'altra parte è stata la mia fortuna perché ho potuto fare delle scelte di vita che viceversa non sarebbero state compatibili. Senti, ma viaggiare, tu hai detto viaggio così poi capisco cosa voglio fare, quindi si viaggia anche per capire... Per capire meglio stessi. Era una cosa che ho fatto una tanto nella vita, 27 anni, 26 anni, ho detto cominciamo anche perché sai, appena finito di laurearti, sì, puoi cominciare a lavorare anche il giorno dopo, però se anche cominci tre mesi dopo non è che cambia niente la tua esistenza. Io mi prendo il mio tempo, rifletto, ragiono, medito sulle parole che mi ha detto il professor Oriani e vedo cosa fare. Quando sono arrivato in fondo fiume, avevo già le idee un pochettino più chiare. Ma per me quello che dicono io viaggio per capire così, non lo so, lascio un po' il tempo che permetterò. Se hai tante motivazioni forse la meno interessante. Si viaggia per cultura, si viaggia per imparare. Se devi trovare te stesso, io so dove me stesso, mi faccio la barba tutti i giorni, basta guardarmi allo specchio, sono lì, a che posso scappare? Chiaro, chiaro. Senti, noi nel... una riflessione che faccio spesso... Ti dico, un po' a volte mi sento in colpa quando sono in giro, è che io comunque sto esercitando un privilegio, no? Cioè sono bianco, sono maschio, ho, diciamo, un reddito che mi permette di fare un giro. Sei quando... nato anche nella parte giusta del mondo. Esatto, siamo nati nella parte giusta del mondo, nel senso, metti una ragazza senegalese che vuole girare il mondo in bici. Hai visto mai? Ti racconto una storia per farti capire forse un po' meglio. Tanti anni fa noi eravamo in Zaire, volevamo scendere il fiume Zaire, quello che si chiama fiume Congo, in realtà si chiama Zaire, fiume che cade due volte nel Quadrone. Volevamo scendere il fiume Zaire in canoa. Ora ti faccio una storia breve perché la storia era molto complicata. Alla fine noi eravamo ospiti di una storia italiana che si chiama Sadelmi. Eravamo ospiti e siccome aspettavamo un permesso particolare per iniziare questa avventura e non sapevamo cosa fare, abbiamo comprato un pallone e giocavamo nel cortile di questa società che ci aveva ospitati. Sai come si gioca da ragazzi? Insieme a Riccardo Fiocchini, tira la palla, fa le solite fesserie che si fa giusto per stare un po' in movimento in attesa che arrivasse questo permesso. Quando finalmente siamo riusciti a partire, la prima cosa che abbiamo fatto è il pallone cosa facciamo? Ce lo portiamo dietro? No, l'abbiamo regalato a un bambino. E il bambino ha preso il pallone, le ballone, è partito come una scheggia, con sto cavolo di pallone, 10.000 bambini dietro che correvano. Beh, se fanno un campo da calcio per farli giocare, lo fanno 3 km per 4, perché non ci stanno mica tutti qua dentro. E il missionario di Lubumbashi era a posto, ci disse, sì, Iscola, però non è che avete fatto una cosa molto intelligente. E io sono rimasto anche male, ho regalato un pallone a un bambino, cioè non... Dice, sì, però adesso lui è il bambino col pallone. Sai, qui per una cosa del genere ti tagliano anche la gola. E io non lo sapevo. Cioè ci siamo rimasti... Per noi il pallone è un pallone. Per carità, era fortunato chi aveva il pallone, perché era quello che decideva le squadre, no? Allora, tu sì, tu no, comincio, scelgo io, poi scegli l'altro... Ma nessuno pensava che ti potessero tagliare la gola perché avevi il pallone. Quindi quando diciamo che siamo nati nella parte giusta del mondo, caspita, sì, siamo nati nella parte giusta del mondo, perché altri miliardi di persone sono nella parte sbagliata. Noi non abbiamo nessun merito in questo. Però quando li incontri lungo il viaggio, come fai? Cioè, come... Non ti viene ad abbassare gli occhi? A me capita. Io vado in difficoltà. Sì, in certi, beh, sì, certo che vai in difficoltà. In certi posti sicuramente vai in difficoltà. Non so se il posto è un luogo migliore per dirlo. Io cerco di fare il mio per quanto riguarda nel mio piccolo e dare una mano. Sia quando sono in viaggio, un po' di più complicato, ma soprattutto quando sono a Milano, a cercare di migliorare alcune situazioni. Ripeto, adesso non è il posto... No, sono fatto. Perché queste cose si fanno, perché me si fanno e non si dicono, ed è molto più... Poi, diciamo, questa roba non è che mi scivola addosso come la pioggia. Questa è una roba che mi colpisce tanto, mi lascia segnatamente molto... anche molto sofferente. E in casa io con mia moglie abbiamo preso delle decisioni, secondo noi, corrette, cercare nel nostro piccolo di essere, diciamo, qualcosa di più che una semplice goccia nell'oceano. Se poi ce ne fossero tante sarebbe sicuramente una situazione un po' più gradevole nel generale. Bisognerebbe riuscire a combattere l'egoismo, diciamo, i nostri egoismi, riuscire a capire molte cose, non c'è molto male di farlo. Ed è un peccato. Però ricordiamoci che il mondo in questo momento è nero e giallo, eh? Questi fanno figli, noi no, prima o poi con questi qua bisognerà pur parlarci in qualche modo, perché fin tanto che il 17% dell'umanità consuma più dell'80% delle risorse, non credo che sia una situazione che sia sostenibile nel lunghissimo termine. Io, se avessi un figlio, avrei qualche preoccupazione sul futuro di mio figlio. Certo. Senti, passando, diciamo... La gente va in depressione. Sì, no, ma invece ti volevo fare una domanda... No, sono andato sul serioso. No, invece ti volevo fare una domanda sempre sulla questione del viaggio. Prima parlavi delle ottiche, A me la cosa che succede quando sono in viaggio, mi porto la macchina fotografica. Io amo fotografare, studio libri di fotografia... Mi piace un certo tipo di fotografia, ma non riesco a fotografare se sono in bici. Se sono in bici mi viene da pedalare. E guardando i tuoi video, una volta glielo devo chiedere, ma come fai? Cioè, riesci a... No, perché a noi ci scappano tante situazioni per lo stesso identico motivo. Delle volte ti devi fare violenza nel cercare di documentare certe cose, perché in effetti ti capisco, quando sei preso nella pedalata... Sì, ma al di là della pedalata, o mi vivo il viaggio o lo documento, cioè... No, beh, questo no, io trovo, faccio fatica nell'interrompere il gesto per documentare quello che sto riprendendo, quello sì, faccio fatica, però siccome anch'io sono sempre appassionato di fotografia, adesso di video... e soprattutto nei viaggi, quelli veramente tosti che ho fatto tanti anni fa, il mio grande rammarico era che alla fine portavo a casa delle immagini tutto sommato molto modeste, perché sai, quando hai una macchina fotografica più di quello non puoi fare, banalmente nemmeno un autoscatto potevi farti, perché all'epoca per farti un autoscatto ci voleva un radiocomando con una trasmittente, una ricevente, una macchina col motore, quindi una cosa complicatissima. Oggi con macchinette da 100 euro fai cose che una volta erano inimmaginabili. Quello a me è mancato, per cui adesso quando viaggio si cerca un po' di non dico di farmi violenza, però mi piace anche documentare quello che... Certo che delle volte non è... a volte fa fatica, devi fare un po' di violenza, quello sì. Però voglio... che so, uno può dire a quest'ora... stacco e mi metto a documentare, però in quell'intervallo di tempo magari non... ti capita che non c'è nulla da documentare, no? Ti capita questa cosa? Allora, se tu leggi su, visto che segui i manuali di fotografia, tu sai benissimo che i momenti migliori sono il golden hour, la sera al tramonto è il momento dell'alba, all'alba magari non sei sveglio e al tramonto magari sei veramente sconvolto, o sei in un posto dove anche se esci al tramonto non c'è niente da... E magari passi in un posto che sarebbe bellissimo se tu fossi lì al tramonto, ma non c'è. E sì. Non puoi dire, ti aspetto il tramonto perché devi portare No. Speravo in, nella tua esperienza. Senti, no, proprio lì non si inventa nulla. A proposito di... Prima fuori onda si parlava appunto dello stare tanto sui social, del seguire social e cose del genere. Adesso mi sembra, almeno dalla mia prospettiva, poi magari tu ne hai un'altra, mi sembra che anche il cicloviaggio sta diventando un prodotto di consumo. Cioè, eventi come... Per carità, ben venga, nel senso, meglio una bici in più in strada e una macchina in meno, meglio un turismo più sostenibile. Però forse si perde un po' di poesia, nel senso, almeno se uno guarda i social, come si diceva prima, ci sono un po' delle vanne marche del cicloturismo che cercano di venderti a tutti i costi un'esperienza unica. E questo forse un po' lo uccide. Non saprei dirti, perché è un settore che non seguo. Prima, in ogni caso, se decidi di fare un viaggio, non lo farei mai andando a seguito a pagamento di un qualche cosa, perché dal mio punto di vista il viaggio, da quando avevo il latte ancora in bocca, capisci che non ho grossi problemi a organizzarmelo, gestirmelo e cercarlo. Tra l'altro, oggi gestire un viaggio, provate a immaginare quando abbiamo fatto il giro non dell'Europa, ma tutto il Mediterraneo, e non c'era notizia, non c'era niente, si faceva andando all'Arce a comprare la cartina geografica, non c'era internet. E gestire queste cose era tutta una cosa molto più complicata. Oggi è una stupidità, ti metti al computer e lo fai, a meno che tu non abbia proprio la pigrizia di dire non c'ho voglia di pensare, non lo fai. Se qualcuno riesce a vivere proponendo dei pacchetti di, io non ci vedo niente di male. A me personalmente non interessa, ma è un fatto mio personale. Poi non lo so, io ho tutta una mia visione, già i termini avventura, non supportato, queste cose qui non mi sono mai piaciuti più di quel tanto. Per me viaggiare è cultura, è conoscere gente, conoscere paesi, conoscere gli usi, costumi, gli abitanti, la religione, la morfologia. Il resto mi interessa onestamente abbastanza poco. Così come mi interessa poco quelli che viaggiano cercando me stesso, cosa che riesco a fare, fatica a capirlo. Però ti ripeto, il mio punto di vista, io sono molto più terra a terra. Sì. La mia domanda è sì, no, è che la domanda che avevo in realtà mi hai già risposto, quindi mi hai spiazzato, perché appunto ti volevo chiedere, bisogna per forza andare in posti lontani per fare un viaggio, però appunto non c'è bisogno, cioè basta anche una girare l'angolo, no? Ma assolutamente sì, cioè, a me piace andare in posti, diciamo, lontani, anche se mi capita delle volte di fare viaggi più vicini. Anzi, avevo un programma prima di venire, volevo fare proprio delle cose qui in Italia, come la Via del Sale, l'altra via dei Monti Liguri, delle cose che trovo anche molto carine da fare dalla nostra parte. Non è necessario andare chissà dove o fare chissà che cosa. Però secondo me il viaggio ognuno si deve cucire su se stesso, su quello che ha voglia di vedere, sulle emozioni che vuole raccogliere, sulle sensazioni che vuole vivere. Ma il mondo è grande, di posti ce ne sono tantissimi, io trovo che ci sia la massima libertà in tutti i sensi, anche nella scelta di un ciclo viaggio, o di un viaggio in generale, insomma. C'è talmente tanta roba da vedere, c'è da imparare dappertutto. Sì. Parlando dell'Italia, io ho viaggiato e ho visto fino adesso mi pare 120 paesi, però se c'è una cosa che l'Italia ha, è soltanto lei, nessun altro paese ha. Se tu vai dalla Val d'Aosta a Palermo, ogni 50-60 km il cibo è cambiato completamente, sono cambiati gli ingredienti, sono cambiati il modo di condire, è cambiato tutto, non c'è un piatto che si assomigli. E se tu vai in Messico si mangia bene, però i cibi sono quelli, sono 10-15 cibi, ma bene o male li hai dalla Bassa California fino allo Yucatan, il cibo è quello lì. La stessa cosa vale per il Vietnam, non vale per l'America, che si mangia burger e basta. E è l'unico paese che ha una varietà. Sarebbe da fare un viaggio di cultura soltanto su quello. poi alla fine anziché aver perso 3 kg ne hai guadagnati 15, ma però è documentato qualcosa che è unico nel nostro paese, non ce n'è un altro davvero. Sì, una cosa di questo genere. Stavo pensando, qui a Firenze c'è l'Artusi, c'è questo libro, che questa raccolta di ricette storica, e la parmigiana come è descritta su quel libro per me non è assolutamente parmigiana, perché come puoi sentire dal mio accento non sono esattamente fiorentino, no? E quindi mi ci sono accapigliato i primi tempi, perché no, ma quella non è la parmigiana, non si fa così, perché la nonna la faceva in un altro modo. Capito? In italiano non è che dobbiamo star lì, c'è sempre stato, quindi sì, sì. Però io trovo, ad esempio, gli aspetti che il nostro paese ha, nessun altro paese che io abbia visitato, che conosca, ha, non solo che l'hanno, non ci si avvicina neanche, non è paragonabile. Senti, per te il cibo è stato mai un limite nel viaggio? No, io sono un onnivoro, mangio un po' di tutto. Ci sono delle cose che non mi piacciono, che quindi a questo punto mangio un torto collo, tipo la carne di montone, la carne di agnello, però se siete vai in Mongolia quello c'è, o mangi quello o digiuni, quindi non è che c'è molto da scegliere. Ripeto, a me non piace, però sai, si fa di necessità virtù. Io sono sicuramente più vegetariano di quanto non sia carnivoro, mangio anche la carne senza, non sono un talebano su niente, però è chiaro che anche l'aspetto culinario è un aspetto fondamentale, fa parte della cultura del viaggio. Ogni paese ha le sue tradizioni, le sue culture, i suoi cibi, i suoi aspetti che non vanno dimenticati. Se poi, ti ripeto, sei una persona con delle difficoltà di alimentazione, ecco, il cicloviaggio non è forse l'attività più facile per una persona che ha problemi di alimentazione. Quello. Ma ghigno sotto i baffi, perché io sarei vegetariano, però ora, alla luce di quello che mi dici, mi devo attrezzare. No, ormai, a parte lo scherzo. Quando sono qui in Italia, anche io mangio per lo più vegetariano. Mangio per lo più, diciamo, roba non di derivazione animale. Però se mi capita di essere fuori a mangiarmi una fiorentina, me la mangio, non è che mi dia problemi. Ho un consumo di carne ridotto, ma non azzerato. Lo sai, io dipende dai paesi. Certo. Oddio, ritrovarmi in sud-est asiatico a mangiare gli insetti avrei difficoltà, eh? Quello... sì, anche a me, avrei difficoltà anch'io. Temo che riuscirei a digiunare anche per parecchio tempo. Una delle cose, mi ricordo quando eravamo ad Angkor, è vero che lo facevamo praticamente solo per i turisti, però vedere delle tarantole fritte o cose di questo genere non è che mi facessero fare la ola. Infatti siamo andati in pizzeria. La pizza, quindi. E hai risolto bene, diciamo. Tutto lì, quando si parlava di cultura, l'aspetto di mangiare le tarantole è una cosa interessante. Perché non è che loro si sono messi i cambogiani a mangiare le tarantole perché avevano un trasporto per gli arachidi. Ma durante il regime comunista, quello che ha portato a milioni di morti, ha fatto fuori praticamente un terzo della popolazione, una roba, un eccidio, erano arrivati a un punto di carestia tale che la gente, per disperazione, per introdurre proteine, è arrivata a mangiare insetti e tarantole. Quindi anche lì, anche in questo caso, vedi, questo aspetto della cucina rivela un aspetto storico, culturale di un paese. Chiaro. Secondo me, oggi non è che puoi ignorarlo, quantomeno non è che devi ignorarlo, magari è anche più interessante saperlo. Chiaro, sì, sì. Anche è una parte fondamentale del viaggio. La cultura è... Io farei fatica a viaggiare senza sapere nulla di un paese solo per andare a vedere, che ne so, monti e foreste. Sì, infatti stavo per chiederti... prima e durante il viaggio ti porti dei libri? In viaggio forse no, perché devi andare leggero. Però prima leggi un po' su... In viaggio volendo anche sì, perché ormai i libri li hai quasi tutti in formato digitale, quindi li metti sul telefonino e hai quello che vuoi. Prima sicuramente sì, c'è una parte, secondo me la parte anche divertente, che è bello fare magari anche con le persone con le quali viaggi, con Ralf e con mio cugino, che sono ormai diventati in pianta stabile nel mio team di viaggi, ci dividiamo un po' i compiti di cercare le cose divertenti, le particolarità, gli aspetti curiosi. È una parte essenziale, ed è una parte fondamentale, oltre che molto divertente, insomma. Ma quindi... Coraggio. Come, scusa? La parte che ti incoraggia. Che ti incoraggia. Ma leggi, che so, anche un romanzo ambientato sul luogo o solo informazioni utili, diciamo una lettura pragmatica o anche una lettura ispirante? Mi è capitato di leggere dei romanzi, però tolto Checking per la Patagonia, dove c'erano comunque degli aspetti che si possono riscontrare. Sai, se è un romanzo che tratta, non so come dirti, in cui la storia poi alla fine è avulsa dal paese stesso e non mi dà delle informazioni che riguardano storia, cultura, eccetera, del paese, magari anche no. Però mi è capitato di farlo, per carità. Mm-hmm. È un po' dal tempo che ho. Mm-hmm. Senti, andando verso la conclusione, volendo scappare da questo momento, no? Se potessi andare via adesso e scappare da questa situazione, tu adesso dove vorresti essere? Io ci sono 3-4 posti al mondo, uno in particolare che ho sempre ritenuto fosse una specie di seconda casa, che è l'Alaska. L'Alaska è un posto di una bellezza, secondo me, senza pari. O, come diceva Walter, la Patagonia, che lui riteneva essere l'ultimo paradiso. Ecco, tra l'uno e l'altro, in questo momento ovviamente Patagonia per il problema del clima, però sono due posti dove io mi sono sempre trovato molto bene. E sicuramente... Ho un trasporto molto... In Alaska ci sono già 7-8 volte, in Patagonia 5 o 6, quindi già solo in un direi che... Ecco, in questo momento sì, mi piacerebbe, con un sogno che ho, con un mio amico Gerardo, che adesso vive in Nuova Zelanda, essere sul fiume Kuskokwim in Alaska. Questo mi ci vedrei bene. Sì, anche perché chi ci sarà mai lì? Non c'è anima, cioè è difficile che trovi... esatto, zero. Quello è distanziamento sociale, proprio quello proprio sicuro. No, quelli sono fiumi dove, se siete capitato di vedere di alcuni video che ho fatto dei fiumi in Alaska, sono posti dove tu puoi passare anche una settimana senza incontrare nessuno. Proprio... E è molto bello, cioè è una cosa molto... adesso non voglio dire Into the Wild, ma poi ci fa un riferimento a un film, non è bello. È una sensazione molto forte, è veramente una sensazione molto molto forte. Secondo me è spettacolare. Ma senti, a proposito, senza andare in posti estremi, il viaggio in solitaria, come lo progetti? Cioè, tu preferisci viaggio in solitaria o viaggio con con altri amici fidati? Solo in solitaria, ma perché era estremamente complicato trovare dei compagni di viaggio. E questo mi ricordo che proprio Bonatti mi disse: l'unico modo in cui tu hai la certezza di fare qualche cosa è sapere che comunque vada tu la farai lo stesso. Perché se speri di fare qualcosa dipendendo dagli altri, alla fine è molto facile che non farai nulla. Questo proprio me lo disse l'altro. Per cui per tanto tempo non mi sono neanche dannato l'anima a cercare qualcuno. Adesso che, diciamo, sono un po' più maturo, come si dovrebbe vincere dal capello lievemente brizzolato, diciamo che viaggiare in compagnia ha un aspetto molto gradevole, quello di condividere le cose. Io mi ricordo a Tasco, in Messico, c'era un camino, sul camino c'era un tronco, sul tronco c'era inciso un vecchio vino da bere, un vecchio tronco da bruciare, un vecchio amico con cui parlare. Ecco, a me è capitato con molte delle persone con le quali ho condiviso i viaggi, che ci si incontra magari, come è successo l'altro giorno per sbaglio, con un amico con cui ho fatto delle cose straordinarie a suo tempo, e ci si incontra come essersi visto il giorno prima. E quando hai condiviso qualche cosa, è qualcosa veramente di molto bello. Oggi preferisco sicuramente viaggiare con qualcuno. Mm-hmm. Poi, se non trovi, per carità, non è che mi danno l'anima, no? O che ci rinunci. No, la prima scelta è sicuramente viaggiare con qualcuno. Senti, un'altra domanda che mi veniva in mente. Quando non viaggi, vai in ferie? Non so di in ferie. Riposi Io ogni sono. tanto? No, io ho smesso di lavorare qualche anno fa, per cui io sono di fatto sempre in ferie. Chiaro, Non mi chiarissimo. capito più da parecchi anni, quindi non saprei come quantificare il concetto di ferie, se non quelle che faccio con mia moglie, che chiaramente è una cosa completamente diversa, perché se mia moglie la porto in canone è capace che mi chiede, anzi, non è che è capace, mi chiede il divorzio. Se non ti butta sotto la canoa. Diciamo che sopporta abbastanza con gioia, se non le faccio fare cose troppo impegnative, il viaggiare in barca a vela. Però non attraverso l'Atlantico, viaggiare e fare delle Che fra cose. parentesi hai fatto? Sì, per 10 anni ho fatto lo skipper della mia barca e ho viaggiato in lungo e in largo, tra cui anche un paio di Atlanti, un paio di oceani. Senti, io ho una domanda al medico, visti questi tempi. Secondo te, Sant'Arnolfo ci può aiutare in questo periodo? Sant'Arnolfo, cioè, tu stai venendo qui a casa mia proprio, sei una provocazione. Certamente sì, È un allora, consiglio medico, eh? male non fa. Però io ho fatto un piccolo video, non so se è sulla birra, sul motivo perché la birra è salvata l'umanità, e c'è una curiosità su Sant'Arnolfo. Sant'Arnolfo diceva sempre, Sant'Arnolfo è il protettore, per chi ci ascolta e non lo sa, dei mastri di Rhino. Sant'Arnolfo era un monaco, anzi era un arcivescovo di Metz, diceva sempre che bere birra teneva lontane le malattie. E c'era una motivazione che poi si è scoperta, perché per fare la birra dare gusto si faceva bollire l'acqua e questo eliminava gli elementi patogeni. In un momento in cui, sai, non essendoci fognature, la raccolta dell'acqua era estremamente pericolosa e altamente contagiosa, come si evince dalla serie di grandi pestilenze che hanno distrutto l'umanità nei secoli. Quindi in questo momento non c'è più questa vena, diciamo così, farmacologica, ma una birra non guasta mai. No, mai, mai. Il miglior energy drink, soprattutto dopo la pedalata. Con me si pone una porta aperta, insomma. Io ho anche nell'ultimo viaggio abbiamo avuto un po' di difficoltà i primi giorni perché eravamo in zona musulmana, per cui la birra non c'era, ma ci siamo poi rifatti quando siamo entrati nella zona cristiana, dove finalmente abbiamo potuto rifornirci del nostro nettare Ma e sai, provare quel vigore a proposito di viaggi per scoprire le culture, la birra è anche una cultura. La birra, il posto dove hai trovato la birra più buona. Cioè, che te la ricordi meglio, se vuoi fare una classifica, perché un solo posto è troppo poco. Diciamo una cosa diversa, il posto dove ho trovato la birra peggiore non c'è, perché la birra l'ho trovata buona dappertutto, anche in Zaire. Io mi ricordo che sulla nostra pirogue ho messo delle casse di birra, perché il problema era il rifornimento dell'acqua, e ce n'erano due, una si chiamava Simba e l'altra Tembo. Simba dovrebbe essere il leone, Tembo è l'elefante, la lingua swahili. Una era chiara, l'altra era rossa. Oh, erano buonissime. Non sei Non affidabile. ancora. Paese dove la birra non sia buona. Forse ti garba troppo. Scherzo, No, è una cosa no, meravigliosa. no. Allora, no, e forse un paese c'è cioè l'America, l'Eurobirra non sa di niente, se mi dici la Budweiser Light com'è? Non capisco neanche perché uno la beva, è acqua fresca, Sì. sapore zero. Togliamo quella roba lì, ma Ma io ti non c'è dirò, dubbio. anche l'Amstel ad Amsterdam. L'Amstel, in confronto ad altre birre che puoi bere, sarà che c'hanno le birre belga dietro l'angolo, no? Però, vabbè, sono gusti. Sai, sono gusti, poi se vai in Scozia con tutte le birre artigianali che hanno c'è da diventare matti, però che poi bevete con moderazione, anche in bicicletta, anche perché non so se lo sapete, se vi beccano col tasso alcolico alto in bicicletta, vi tirano via la patente, Ah. anche se sei in bici. In Italia? Sì, in Italia. E Ah, c'è infatti discussione sul fatto costituzionale, perché le pene dovrebbero essere uguali per tutti, uno dice scusate, ma se uno la patente non ce l'ha cosa gli tirano via? Niente. Comunque, in questo momento in Italia, se ti beccano col tasso alcolico alto, in bicicletta ti tirano via la patente. mi devo attrezzare a fare a meno della patente. Già faccio a meno della macchina, quindi... Altro neanche, non ho problemi. Sì, sì, ma appunto... Senti, a proposito, nella tua vita quotidiana la bici la usi? Com'è la tua mobilità? Cioè, hai una visione di mobilità? Vabbè, poi abitando appunto a Milano... Molto facilitato dal punto di vista della mobilità, perché noi ci lamentiamo sempre, però Milano si muove, ci si muove benissimo. Io poi non posso farlo vedere, però se apro la finestra di casa mia, c'è MM rossa, c'è la metro sotto casa. Milano si gira benissimo con i mezzi, se ho fretta giro in bici. Io ripeto, non ho la macchina, ma non l'avevo neanche quando facevo medico. Avevo lo studio fuori Milano, ci andavo in bici. Grande. Non ho mai avuto... Forse con i soldi che si risparmiano all'anno della macchina ci fai un bel viaggio. Uno? perché non avete fatto bene i conti. Ne fai più di uno di viaggi. La macchina ha un costo importante. Non so se hai visto in questi giorni, purtroppo ritornando all'attualità, però lato positivo, c'è stato un crollo totale degli inquinanti in atmosfera. E questo ci dimostra di quanto incida... Perché di solito si diceva, ma sono anche i riscaldamenti... Ora, vabbè, magari i riscaldamenti sospenti, però l'impatto del traffico motoristico... Cioè, ovviamente che c'è. C'è un'immagine interessante, se la trovi in rete, che è proprio di Wuhan, la città, con dell'immagine del satellite ad infrarossi, prima e dopo il momento che hanno blindato la città. C'è anche... C'è identico anche dell'ESA sulla pianura padana. È identico il video da satellite, da pianura padana e anche Firenze alla fine è una conchetta dove l'aria ristagna. E adesso nell'edizione fiorentina di Repubblica è un fioccare di «Oh, guarda come il cielo è più azzurro, guarda che luce, è un'ola». Io non mi interesso tanto di mobilità su bicicletta, come fa il mio amico Paolo Pinzuti, di tanto ne parliamo, ma c'erano dei dati che io seguivo già da tempo. A Milano, questo già 7-8 anni fa, negli ultimi 8 anni erano raddoppiate le macchine circolanti, cioè il parco macchine circolanti, e il 40% delle macchine circolanti cercava parcheggio. Questo dato dovrebbe già dire fermate. L'architetto Piano, quando ha fatto la famosa torre di Londra, sai quanti box ha fatto nella torre? Due. Perché ha detto, tanto la mobilità in città non può essere sostenuta dalle macchine, con buona pace della Fiat. La mobilità potrebbe essere al massimo il car sharing, ma questa storia di muoversi come ci si muoveva una volta, deve finire. Non ha senso. Tutte le città che me, quando ho fatto ad esempio la Via della Seta, tutte le città del nord Europa, Tallinn, Brno, Cracovia, sono tutte ciclabili, hanno tutte piste ciclabili fatte benissimo, solo noi non le abbiamo. Ma che senso ha? Oltretutto il tempo dal punto di vista meteorologico non è che, voglio dire, San Pietroburgo è messo meglio di Roma, Avrei dei dubbi. Ora, cambiamento climatico sì, ma non fino a questo punto. Prima o poi, volenti o nolenti, la mobilità in macchina dovrà cambiare nelle città. Io mi auguro prima e non poi, anche per la nostra salute. E certo che adesso, se ti capita di affacciarti alla finestra e vederla a Milano, come capita nelle giornate senza la mobilità delle macchine, vederla libera, è un sogno, è un'altra città, è vivibile. Si può augurare solo che questa sia una cosa che entra nella testa delle persone. Ho capito, si farà un po' più di fatica e pazienza. I vantaggi sono molto di più piuttosto che non gli svantaggi. Paolo Pinzuti oggi scriveva che aveva appunto il dubbio che nel dopo, vista la paura dell'affollamento e del appunto questa voglia di isolamento sociale, la paura è che dopo vengano ancora di più evitati i mezzi pubblici e ovviamente il rischio è che aumenti il mezzo privato a motore, e quello è una paura. Il motore non c'è problema, non si muove più di nessuno. Cioè, Milano, quando capita che piove così, non ci si muove per andare da un punto all'altro, poi è un'eternità. Sì, sì. Ma non ha veramente senso. Vuol dire buttare via ore e ore della propria vita per stare immobili in mezzo al traffico. Senza motivo. Sì, fortunato se ovviabile. O comunque ovviabile, sì. Va bene, Sergio, l'abbiamo fatta lunga, io ti ringrazio della disponibilità e anche della bella compagnia e speriamo di sentirci presto e magari se ti trovi a passare a Firenze si fa un'intervista dal vivo, si fa una chiacchierata dal vivo. No, però se torna la buona stagione sicuramente sì, è molto volentieri Giuseppe, intanto salutiamo anche tutti gli ascoltatori sì, perché sono arrivati bene, che hanno avuto la pazienza di stare qui a ascoltare le nostre lucubrazioni. Grazie ancora. In 1945 I came to this planet. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti, e avevo gli occhi gonfi di stupore nel sentire il cielo azzurro pare limpido e regale. Il cielo a volte invece ha qualche cosa di infernale. Strani giorni, viviamo strani giorni. Cantare, sento l'umore di swing provenire dal neolitico, dall'oloceno. Sento il suono di un violino alone, I'm walking alone through the grey Sunday street. E mi circondano l'alba e il mattino. The place is clean, well lit. Chissà com'erano loro, il Rio delle Amazzoni ed Alessandria la Grande, e le preghiere e l'amore. Chissà com'era il colore. You look at the hands, not at the face. If you want to stay out of trouble. Lambivano suoni che coprirono rabbie e vendette di uomini conclave, ma anche battaglie e massacri di uomini civili. L'uomo neozoico dell'era quaternaria. Strani giorni, viviamo strani giorni. Voce di un cantante, si rispecchia il sole, ogni amata, ogni amante. Strani giorni, viviamo strani giorni. I've fallen into reverie, I dreamed big of life. The whiskey flowed, sending me to the past. Action, roll the camera. Here comes lightning through my life. Between the corner, didn't say a word. Didn't say a word.